24, i gialli della storia. Cascatamento montagna di Sarno e in alcuni punti il terreno superava l'ambulanza. Una montagna nera. Fui inghiottito da questo fiume di fango. È molto molto bravo, è fatto un disastro, non ci mai ricordiamo. Nessuno ci aveva riferito, né di case demolite né di morti. Una diecina ne ho viste io completamente sventrate, abbiamo visto la morte con gli occhi. Noi eravamo proprio isolati, le persone sono morte nelle case. ...160 morti, centinaia di feriti, migliaia di sfollati e il bilancio della catastrofe naturale che il 5 maggio del 98 si è abbattuta sulla provincia di Salerno. Una pioggia incessante che provoca una serie di valanghe che travolgono tutto sotto il fango e i detriti. A essere colpite sono le zone di Brancigliano, 15, e Siano, dove ci sono 23 morti, ma nella sola Sarno l'alluvione provoca 137 vittime. Quella di Sarno un disastro che ha provocato rabbia, polemiche e interrogativi. Che cosa è stato fatto per fronteggiare l'alluvione e le frane? Il sindaco di Sarno, Gerardo Basile, dopo un lungo iter processuale, è stato dichiarato colpevole di omicidio colposo per condotta negligente e per non aver ordinato l'evacuazione della popolazione nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Ma intanto di quella tragedia rimane la cronaca di quelle ore. Ed è questo che vogliamo raccontare oggi a Mix24 con le testimonianze di chi c'era, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Sono le 4 del pomeriggio di martedì 5 maggio del 98. Arriva una telefonata al centralino. Mi segnalano che sulla strada che porta a Brancigliano c'era una frana. Prendo gli uomini che erano lì a disposizione, eravamo 11 persone, e con 3 macchine ci avviamo verso Sarno. La prima cosa che faccio, chiamo anche la prefettura, questura, per dare questa notizia e per informarvi di questa situazione che si stava sviluppando. Non avevo una risposta concreta, allora ho capito che dovevo darmi da fare da solo. In quel momento ancora non era stato istituito un centro di ricovero, perché non c'era ancora stato. Quindi io sostituì la caserma dei carabinieri, dove feci fermare queste persone anziane, qualche donna incinta, perché un po' prese dal panico, una cosa in alto, quindi non sapevano dove andare, non avevano riferimenti. Le prime persone che sono arrivate e che mi hanno dato una mano sono state proprio la gente dei paesi vicini. Sono intervenuti subito con pale meccaniche, con ruspe. Riuscì a parlare con mia mamma perché c'erano problemi di linea, non si riusciva a prendere la linea. Mi ricordo le parole di mia mamma che disse scappa, scappa, quasi se ne sta accadendo tutto. Io stavo con l'auto e mi trovo un posto di blocco che mi vietano di oltrepassare la transenna, però allo stesso tempo non mi vietano di continuare a piedi e quindi cerco di raggiungere casa mia. Sono circa le 5:30 del pomeriggio. A Sarno molte strade sono ormai sommerse dal fango, soprattutto nella frazione di Episcopio, nella zona più alta di Sarno. Fino a questo momento però tutta l'attenzione della prefettura di Salerno, a cui spetta, lo ricordo, il coordinamento della protezione civile nella provincia, è concentrata soprattutto sui comuni di Siano, di Brancigliano e 15, dove la situazione sembra più grave e dove già dalle prime colate i sindaci hanno disposto l'evacuazione dei cittadini dalle case. A Sarno invece per la popolazione non scatta nessun allarme, eppure ancora pochi minuti e ha inizio la tragedia. Alle 6 c'è stata una seconda ondata ed è stata forse quella la più forte, perché a quel punto anche il fango e l'acqua è arrivata davanti al commissariato. Intorno alle 18, in una zona di Sarno, che è la zona orientale di Sarno, c'era stata una frana che aveva distrutto una strada. Questa strada stava lì da 100 anni. C'erano molte strade di Episcopio tra cui la strada principale Viale Margherita, completamente e continuamente invasa dal fango. Già allora contavamo già dei disperti, si andava cercando un bambino in particolare e una donna anziana. A Sarno ormai si contano i primi dispersi, ma anche la prima vittima si chiama Roberto Serafino e ha 8 anni. Tra nebbia, pioggia e il fango che continua a scendere dal monte Pizzo d'Alvano, le forze dell'ordine fanno quello che possono. Aiutano le persone a evacuare le abitazioni colpite, cercano di far fronte al panico e all'emergenza. Intanto il dirigente del commissariato di Sarno, Sebastiano Coppola, cerca il sindaco in comune. Sono circa le 18:30. Ho cercato anche in qualche modo di contattare qualcuno al comune, però personale del comune mi ha riferito che il sindaco era già informato ed era fuori per fare un sopralluogo. Già presenti sul posto. Cerchiamo comunque di metterci in contatto con la prefettura per riferire su questo sopralluogo. Di fronte al commissariato c'era, penso che ci sia ancora, una scuola, un istituto tecnico. Io non ho esitato, con l'aiuto dei miei collaboratori, a sfondare la porta di questa scuola e far riparare le persone in questa scuola. Gerardo Basile, il sindaco di Sarno, non è in comune perché sta verificando di persona quanto sta accadendo. Ma questo sopralluogo dà al sindaco soltanto una visione parziale della tragedia che è in corso. Basile infatti non sa che a Sarno ci sono già i primi dispersi e che c'è già un morto accertato. A questo punto, e siamo alle 18:45, una giornalista di Telenuova Pagani, l'unica emittente locale a coprire l'alluvione di Sarno, intervista il sindaco per strada e Basile tranquillizza la popolazione e la invita a restare in casa. E invece, nello stesso momento, in altri quartieri di Sarno avviene esattamente l'opposto. Le forze dell'ordine impongono ai cittadini, anche con la forza, di lasciare le case il prima possibile per evitare il peggio. Beh, l'evacuazione è stata una conseguenza della frana, cioè aver visto praticamente come si era manifestata, in che modalità, con quale modalità, ci ha fatto chiaramente capire che come era avvenuta una di quella consistenza ne potevano venire anche altre. All'improvviso, come immagino un tappo di una bottiglia esplode, così è stato. Si è riversata all'improvviso una grossa fame che poi ha preso quelle macchine che erano incastrate e le ha buttate giù. Sembrava un'onda gigantesca venire giù. Una telefonata sconvolgente è stata quella di un caro ragazzo poliziotto che prestava servizio alla questura di Salerno, Alfredo Dirna, che era un carissimo ragazzo, il quale disperato si trovava chiuso in casa con tutta la famiglia e poiché c'era anche un'amicizia, lui proprio personalmente mi chiedeva un aiuto e purtroppo non è stato possibile perché l'aiuto che mi chiedeva Alfredo Audirna era quello di voleva essere salvato. Si è trovato chiuso dentro in casa con tutta la famiglia, sommerso dal fango. Infatti poi dopo l'abbiamo trovato ovviamente morto, annegato in questo fango, lui e tutta la sua famiglia, e non è stato possibile aiutarlo. Avete cercato di aiutare la gente che scappa? È obbligatorio aiutarle, con la famiglia l'avete cacciata fuori. Stavo ancora nel fango fino a una mezz'oretta fa, perché io mi sono salvato proprio per dare soccorso a sta bambina, perché la mia casa non c'è più. La frana delle 19:50 fa 46 vittime. Soltanto mezz'ora prima dal comune di Sarno la prefettura di Salerno aveva avuto rassicurazioni che l'ondata di fango aveva coinvolto solo delle automobili. Adesso invece lo stesso sindaco Gerardo Basile è scampato per miracolo alla morte. Intanto, e sono quasi le 8 di sera, all'ospedale Villa Malta, che è situato proprio a ridosso della montagna, il personale medico e gli infermieri aspettano il cambio turno, un cambio turno che però non arriva. Abbiamo chiamato con il telefonino dell'ambulanza per chiedere come mai non arrivasse il cambio. Queste erano le 8:15, 8:10. E qualcuno ci ha detto, che non so chi, e lo ripeto, che dovevamo restare a lavorare, che c'era bisogno di lavorare. A questo punto è una corsa contro il tempo. Dal comune intanto il sindaco Basile cerca disperatamente di comunicare alla prefettura di Salerno la gravità della situazione. Come noi tentavamo già dal posto dei vigili urbani di chiamare la prefettura, ma non ci riuscivamo più, anche perché poi il mio cellulare si era scaricata la batteria nei vari tentativi per poter comunicare con loro. Allora dissi, l'unico modo per far capire qual è il problema, pregai il dottor Crescenzi di stilare un fax, di preparare un fax e inviarlo in prefettura. Comunico che la situazione comune di Sarno è gravissima. La pioggia continua sta aggravando sempre di più la situazione. Le forze impiegate sono inadeguate alla gravità del momento. Si teme che ci siano anche vittime umane sommerse dal fango e dai crolli delle case situate nelle zone pedemontane. Ci riusciamo a mettere in contatto con la prefettura. Loro ci dicevano, attenzione, vedete un po' se ci sono dei morti, ci sono morti. Questa era la domanda assillante che ci faceva. Ci sono case cadute e morti, case cadute e morti. Noi non avevamo contezza del numero dei morti. Anzi, addirittura nessuno ci aveva riferito né di case demolite, abbattute, né tantomeno di morti. Fino alle 20:47, quando ha fatto mandare quel fax alla prefettura di Salerno, il comune non era a conoscenza di morti a Sarno. E infatti poco dopo Basile fa un altro appello alla popolazione tramite l'emittente locale Telenuova Pagani per ribadire ai cittadini di rimanere tranquilli nelle proprie case. Purtroppo però quei nastri sono andati perduti e non è stato possibile acquisirli al processo. Nell'archivio della televisione però rimane un altro messaggio, stavolta dell'assessore Crescenzi. Anche lui, dopo aver firmato il fax alla prefettura di Salerno, adesso esorta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni. La situazione certamente non è felice, però io non vorrei creare allarmismi inutili nella cittadinanza. Le indicazioni che io ho dato nel messaggio sono quello che la più volte la prefettura aveva ripetuto. Noi eravamo tranquilli perché avevamo sentito per televisione il sindaco che diceva: state tutti tranquilli, state chiusi in casa, il peggio è passato. Qualcuno l'abbiamo preso anche di forza per tirarlo fuori, insomma. Signora! A Sarno, insomma, siamo ormai nella confusione totale. Da una parte il sindaco e gli assessori che tranquillizzano la popolazione e la invitano a restare a casa. Dall'altra, le forze dell'ordine che spesso devono intervenire con decisione per far evacuare i cittadini. Intanto un rumore assordante è il segnale che il dramma non è ancora finito. Sono le 23:25. Rumore assordante, nello stesso tempo un odore intenso di terra. Feci per girarmi e non vidi più casa mia, ma vidi una grossa onda nera che la ricoprì. Il tempo di guardare mio padre, lui urlò il mio nome, mia zia la stessa cosa, e poi fui inghiottito da questo fiume di fango. Riuscii a cavalcare queste onde, oltrepassando casa, uscendo dalla finestra. Alla fine poi mi ritrovai a terra, tutto intontito, cercavo di capire quello che stava succedendo. E mi stavo avviando verso l'uscita perché alla fine si vedeva un po' di luce. Quando poi arrivò un'altra onda, mi seppellì completamente. Roberto Robustelli, uno studente di 22 anni, è sepolto dal fango nel sottoscala di un palazzo a un chilometro dalla sua abitazione. Tra lui e il soffitto ci sono solo 15 centimetri, quanto basta per farlo per respirare e tenerlo in vita praticamente sepolto vivo. Ma intanto la giornalista di Telenuova Pagani, Patrizia Sereno, si reca all'ospedale Villa Malta, che è ancora in piena attività. Nessuno ha pensato a evacuarlo. C'è stato questo dottore piccolo piccolo, che io ho intravisto, che ho sentito solo urlare, che a suon di improperi, cioè di stimoli piuttosto forti, ci ha cacciato via. Ci ha detto: voi ve ne dovete scendere, ve ne dovete andare, mettetevi in macchina, andate dietro l'ambulanza. Venendo all'ospedale, con i miei militari siamo anche un po' sorpresi, perché ritenevamo che quella struttura dovesse essere già stata abbandonata da molto tempo. Ci rechiamo all'interno dell'ospedale, veniamo accolti dal dottor Marino e gli chiediamo appunto che deve abbandonare comunque questa struttura, perché secondo noi non era sicura. Lui si era già reso conto del pericolo che correva e ci chiedeva appunto di cercare di vedere se più avanti, la strada che avremmo percorso noi a piedi, ci sarebbe stata la possibilità di trovare spazio, un'ambulanza, perché lui, la sua grande preoccupazione era quella del personale che era lì ricoverato. Villa Malta, noi non abbiamo mai avuto dai medici di Villa Malta, almeno al comune, indicazioni su soccorsi, richieste di soccorso, no, questo qua no. Il sindaco di Sarno, Gerardo Brasile, lo ripete, da Villa Malta non ha mai ricevuto nessuna richiesta di evacuazione dell'ospedale, ma a Villa Malta il dottor Marino sa perfettamente che la situazione è drammatica. Il dottore Marino disse una frase che ricordo bene, che noi avevamo anche noi la montagna alle spalle, e che ci avrebbe aiutato padre Pio. Apro la finestra e vedo una montagna nera, spaventosa. Richiudo come se fosse qualcosa di distintivo, però scappo. Al primo impatto io gridai il terremoto. Me la sono vista venire addosso questa valanga, questa il fango. La frana. Ho avuto proprio la netta sensazione di morire. È l'ultima frana che devasta Sarno. Sono le 23:45, stavolta nel fango muoiono 86 persone. La frazione alta di Sarno Episcopio praticamente non esiste più. L'ala del pronto soccorso di Villa Malta, dove opera il dottor Marino, è stata spazzata via, mentre gran parte del resto dell'ospedale è distrutto o comunque invasa dal fango. Non molto lontano da Villa Malta, Roberto Robustelli, sepolto vivo nel fango, sta vivendo la sua lotta per la sopravvivenza. Mi trovo tipo in un mare, no? Dove per stare a galla, dove appunto muovermi velocemente, perché appena che smettevo così venivo tirato giù. Questo fango si iniziò a indurire, no? All'inizio ero contento perché ormai non dovevo più fare sforzi, perché non c'era più quella paura di poter affondare. Però quando il fango poi si iniziò a indurire, mi costringeva tutto. Mi bloccava il torace, mi bloccava le gambe, non riuscivo più a muovermi, quindi era diventata una fatica inversa stavolta, di liberarmi da questa terra che mi costringeva, no? Tipo essere seppellito però nello stesso tempo vivo. All'inizio mi prese quella sorta di disperazione, se così possiamo chiamarla. Piangevo, perché molte volte piangere ti fa bene, no? Poi, per non farmi prendere dal panico, iniziai a pensare in maniera così spontanea alle cose belle, no? Che mi erano successe nella vita. Poi, arrivato a un certo punto, razionalizzai bene la cosa e capii che c'era poco da fare. Quindi iniziai a fare l'eterno riposo per me stesso. Mentre Roberto Robustelli continua a lottare sepolto nel fango per decine e decine di abitanti di Episcopio, non c'è più niente da fare. Tra le vittime ci sono anche due ragazze di 20 anni, Raffaele Cuoco e Antonio Annunziata. Per ore e ore si sono impegnati nei soccorsi, salvando tra l'altro, e con eroismo e coraggio, i bambini di una scuola. Raffaele e Antonio, dimenticati da tutti, senza neanche una medaglia al valor civile, restano uccisi proprio a Villa Malta. In una gara di solidarietà da tutta l'Italia e dall'estero arrivano i soccorsi e i mezzi per cercare eventuali superstiti. Si scava giorno e notte senza sosta per giorni e giorni. Nessuno sa che un ragazzo, Roberto Robustelli, è ancora vivo, sepolto in quel sottoscala invaso dal fango. Robustelli deve combattere contro il fango, la fame, la sete, il buio, la perdita della cognizione dello spazio e del tempo. Per lui è un'agonia senza fine. Io pensavo che ero rimasto solo io sulla terra, perché poi stando chiuso, poi iniziai a sentire dei rumori e capii che era un elicottero. Allora a quel punto iniziai a urlare. Poi capii che fondamentalmente stando chiuso, no? In questa terra, in questo fango, avrei potuto urlare quanto volevo, però nessuno mai poteva ascoltarmi. Capii che la cosa importante era quella, cercare di dissetarmi. Avevo paura, in un certo senso, di bere quella sorta di fango e acqua, anche perché ci avevo pure un attimo provato, però non riuscivo ad ingoiarla perché c'era la terra dentro. E quindi pensavo che la cosa più ovvia e più opportuna era quella di bere da me stesso. L'8 maggio, 72 ore dopo l'alluvione, il colpo di scena. Continuando a scavare, una speciale sonda dell'esercito capta un battito cardiaco e il cuore di Roberto Robustelli che batte ancora sotto il fango. Fummo chiamati dalla gente che comunque sentivano un lamento, delle voci. Poi inizia a sentire dei rumori che non erano più quelli dell'eliche e dell'elicottero, no? Ma dei rumori che si facevano più vicino. E uno che mi disse: dove sei? Dove sei? A destra, a sinistra della luce. E io la cosa spontanea che dissi subito: ma qual è la destra, qual è la sinistra? Vedo sto ragazzo che scende giù, che mi stende la mano per tirarmi, no? Poi arrivato a un certo punto si rende conto che non ce la fa. La prima visione di Roberto fu, mi ricordo, gli occhi di Roberto. Quegli occhi, lui era pieno di fango, era praticamente ricoperto di fango, era nero. Però aveva quegli occhi, gli occhi che erano, brillavano. Io in questa mano avevo visto la salvezza, no? E lui cerca di ritirarla perché voleva trovare un'altra posizione. Dico: no, non mi lasciare, tirami. Si aggrappò a questa mano, la sua speranza. Anche io lo dovetti rassicurare, dissi: non ti preoccupare, stai tranquillo che se non ti porto su non esco nemmeno io. Lui mi disse: non ti preoccupare, se qualcosa vengo giù insieme a te. E fu una cosa bellissima quella. Lui così mi lasciò la mano e la cosa che mi chiese fu la torcia, la luce, che lui era stato 72 ore là sotto al buio, senza luce, senza niente. Io gli lasciai la torcia, salì su, allargammo il buco, riscesi, lo presi e lo riportai su. Mi chiesero se volevo concedere delle interviste a, diciamo, a dei giornalisti stranieri. E ci fu, non mi ricordo, inglese, americano, di un'altra nazionalità, che in inglese disse: cosa mi dici della perdita dei due cari, parents, genitori? E quindi in quel momento capì che mio padre non c'era più. Roberto Robustelli si è salvato, ma dietro a questa tragedia sono rimaste decine di vittime e molti interrogativi legati alle responsabilità. Ci sono voluti molti anni per mettere la parola fine a questa vicenda. È il 7 maggio del 2013 quando la Cassazione dichiara colpevole il sindaco Lisarno.